Spedisco un messaggio di posta elettronica. Pochi secondi ed il destinatario me lo rimanda indietro. Anzi, il suo computer. È una risposta automatica. Mi dispiace, ma il tuo messaggio non può essere ricevuto in questa forma a causa del prefisso aggiunto dal mail reader all'inizio del leader subject. Outlook, infatti, utilizza il prefisso R anziché il corretto RE. Questo causa vari problemi, oltretutto su alcuni newsgroup i tuoi messaggi potrebbero essere rifiutati. Puoi risolvere il problema correggendo a mano il subject della mail oppure procurandoti una patch non ufficiale che correggerà la DLL responsabile del problema. Puoi infine, ed è la soluzione migliore, provvedere ad installare l'ultima versione di Outlook Express ed attivare opportune impostazioni, strumenti, opzioni, invio, impostazioni internazionali. In risposta al messaggio utilizza sempre intestazioni in inglese. Per favore, rinvia la tua mail dopo aver corretto il bug del software che utilizzi. Grazie. Provo a tradurre con gli occhi di chi non ci capisce molto. Il prefisso R è scorretto. Altresì il prefisso RE è corretto. Questo causa vari problemi. Non saprò mai quali sono questi problemi. Su alcuni newsgroup i miei messaggi potrebbero essere rifiutati. Uso un programma di nome Outlook. La soluzione migliore è cambiare programma con uno che usa sempre intestazioni in inglese. Sempre da profano mi sarebbe venuto da rispondere, nell'ordine, che ho sempre usato il prefisso R senza problemi di sorta, che esigo di conoscere i problemi di cui sono eventualmente causa, che nessun messaggio mi è mai stato rifiutato, che non uso assolutamente un programma di nome Outlook, che non ho nessuna intenzione di cambiare il mio programma con uno che usa intestazioni sempre in inglese. Li avrei informati di tutte queste cose, ma in tutta evidenza avevo a che fare con una macchina, macchina che per quanto evoluta non avrebbe mai potuto discettare con me dell'argomento. Tuttavia quel messaggio è stato redatto senza dubbio alcuno da una persona in carne ed ossa. Una persona che di fronte ad un sistema che non ammette messaggi che cominciano per R, ritiene che il bug, l'errore, stia non nel sistema che non accetta messaggi che cominciano per R, ma in chi quei messaggi li manda. Una persona che invece che scrivere scusa, questo sistema fa schifo, fa un sacco di altre cose complicate, ma se mi scrivi un messaggio che comincia per R e va in confusione, stiamo lavorando per aggiustarlo, nel frattempo scrivi messaggi senza R. Una persona che invece che scrivere tutto questo mi dice: guarda che mi hai mandato un messaggio che comincia con la R, non lo sai che non si può? Beh, potevi almeno pensarci, vergogna. Come sempre, in questi casi cerco rifugio in un paragone analogo, paradossale, per rendermi conto fino in fondo del livello della stupidata. L'associazione è quasi automatica. È come dire che il problema delle buche nelle strade non sarebbe così grave se gli automobilisti le buche le evitassero. L'associazione mi viene automatica perché quella stupidata, l'ho già sentita per davvero. È successo anche questo, a Milano, ovviamente in consiglio comunale. Fossero nascoste, le buche, ma sono tanto evidenti, sempre le buche, le scansino. Nel 1927 Albert Einstein scriveva che il coefficiente di stupidità in una società è dato dal numero di esempi pubblici di stupidità omologhi fra loro che si riesce a trovare nell'unità tempo. Milano, Lombardia, 2 su 0, coefficiente di stupidità tendente ad infinito.